Allora, sì, io intanto ti ringrazio, ringrazio la radio per questo brevissimo spazio, insomma, di comunicazione. Domani alle ore 18:30 a Generazione P si terrà un appuntamento pubblico in cui vorremmo lanciare un laboratorio metropolitano permanente per lo sciopero precario, seguendo anche un po' il percorso che si è creato intorno agli stati generali della precarietà che ci sono stati nel giorno del 15, 16 e 17 aprile scorsi. Un appuntamento, quello degli stati generali, che ha visto una grande partecipazione di precari e precari, di lavoratrici e lavoratori, ma anche di persone che il lavoro non ce l'hanno perché non vi hanno ancora fatto accesso oppure ne sono state escluse e esclusi, quindi si stanno interrogando su come dire, questo sistema li schiaccia in tutti gli aspetti della loro vita, che va appunto dalla questione della casa fino agli affetti che vengono ridotti, no, a un elemento anche di produzione in questo momento, no? Siamo in una fase in cui sostanzialmente ci chiedono di mettere a profitto tutta la nostra vita, comprese anche le relazioni umane. E quindi abbiamo pensato di allargare la partecipazione sempre di più, anche perché si stanno portando avanti diverse vertenze che vorremmo anche mettere un po' al centro di questo percorso, che dovrebbe, appunto, come tu dicevi, far prendere consapevolezza e coscienza alle persone di una condizione che ci riguarda un po' tutte e tutti, e che non è soprattutto una questione generazionale, perché possiamo parlare di generazioni precarie, possiamo parlare di persone che a 40 anni o a 35 o anche a 50 si ritrovano improvvisamente senza una fonte di reddito, senza alcun lavoro. E quindi è necessario mettere insieme questi vari aspetti e ragionare insieme a una serie di giornate, alle forme soprattutto che può prendere come dire, uno sciopero che sia non dei precari e delle precarie, ma che metta al centro appunto il concetto di precarietà. Quindi precarietà di vita, precarietà nella casa, precarietà nel lavoro, precarietà nelle relazioni tra paesi. Immaginiamo ai migranti che forse per primi hanno capito quanto poteva essere importante ragionare su una giornata senza di noi, no? Un po' l'esempio del 1º marzo, far capire qual è la forza che una persona anche da sola può mettere in gioco per mettere sotto ricatto, per contrastare lo stato di cose presenti, cioè quello che ci schiaccia tutti i giorni, dal datore di lavoro fino agli enti pubblici che ci devastano con una fiscalizzazione che ricade molto spesso sulle persone dipendenti. No? L'abbiamo visto in questi giorni, si sta parlando molto di Equitalia, si sta parlando molto di mobilitazioni che guardano proprio a questo aspetto sostanzialmente della crisi, no? Il fatto che viene fatta ricadere su chi sostanzialmente non la può gestire. Insomma, tutto questo un po' al centro della discussione, ma soprattutto l'immaginazione di come ciascuno di noi può contribuire a questa forma di sciopero precario, che sembrerebbe quasi un ossimoro, no? Perché chi, diciamo, vive la precarietà, cioè vive momenti difficili, vive una vita che è fatta di tempi estremamente parcellizzati, in cui sembra quasi che ci sia necessità di avere non so, due teste, quattro mani, cinque piedi per poter essere presenti in tutti i posti in cui ci richiedono di essere presenti, sembrerebbe quasi un ossimoro, appunto. Invece c'è la necessità proprio di pensare a dei momenti in cui noi dobbiamo dire che è necessario sottrarsi, che è necessario anche sabotare alcuni meccanismi di produzione che noi viviamo, che può andare alla produzione più strettamente materiale. Quindi ci sono stati molti interventi interessanti, per esempio dei lavoratori dei call center, che secondo me sono un po' anche sono stati per molto tempo, ma secondo me sono ancora il simbolo, no? Per lungo tempo anche nell'immaginario collettivo della precarietà. E adesso si ritrovano ancora una volta con proposte allucinanti. Ne faccio solamente una, anche un po' per dare il quadro, insomma, della situazione, di voler essere inseriti in un processo di, come dire, io lo chiamo privatizzazione, di autonomizzazione, cioè a molti viene proposto di mettersi sotto partita IVA, in modo che da lavoratore dipendente sulla carta passi da lavoratore autonomo, ma diciamo così, l'autonomia del lavoro non è assolutamente presente, perché comunque continui a fare un lavoro che ha le caratteristiche di un lavoro subordinato. Insomma, questo anche per spiegare qual è, insomma, la piattaforma larga che si cerca di tenere. Quindi l'appuntamento è domani alle 18.30 a Generazione P, in via Alberto da Giussano 59 al Pigneto.